Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Così cantava Bobby Solo nel 1964, ma ad essere affascinato dalle lacrime è anche oggi un giovane scrittore e artista visivo, Gabriele Picco, che intorno alle lacrime ha costruito un romanzo. Si intitola Cosa ti cade dagli occhi ed è pubblicato da Mondadori. È un romanzo costruito per piccoli capitoli, quasi dei quadri, con personaggi un po' surreali, ad iniziare dal protagonista Ennio, che l'autore ci descrive così. Ennio è un ragazzo italiano che per un motivo all'inizio oscuro del libro decide di lasciare la sua famiglia, insomma lasciarsi alle spalle il suo passato e approdare a New York, dove la sua vita lo cambierà. La New York che tu descrivi in questo romanzo non è poi però la New York glamour, è una New York più popolare, insomma. Sì, ho riportato molto della mia esperienza newyorkese e mi piaceva descrivere i luoghi che ho vissuto, soprattutto ecco, una New York non appunto quella glamour, ma una New York che è anche fatta di sporcizia, di odori, di schifezze proprio. E a questo proposito mi ricordo che, per esempio, un libro che mi era piaciuto molto su New York era quello di Soldati, America Primo Amore, e anche lui mi aveva molto colpito perché aveva descritto una New York appunto sporca, quella che di solito non attira i turisti, ecco. Quasi all'inizio del romanzo il protagonista Ennio trova un quadernetto dove ci sono anche dei disegni e si sa che appartiene ad una ragazza giapponese. Da qui insomma inizia una ricerca di questa persona. Che cos'è che lo incuriosisce? Ennio rimane incuriosito da questi disegni perché riescono a fargli guardare la città New York con altri occhi e si accorge piano piano, sfogliando questo taccuino che lui chiama quasi un taccuino magico, che tutto ciò che lo circonda a un certo punto non lo spaventa più. Quindi per esempio i grattacieli che prima lo facevano sentire piccolo, sempre più solo, a un certo punto si trasformano in questi palazzi che lui immagina in standing ovation, quindi che lo stanno salutando e lo accolgono, o per esempio anche le limousine diventano attraverso gli occhi di Kazuko dei coccodrilli. Quindi ecco, rimane affascinato da questa magia che gli permette di guardare tutto ciò che lo circonda con un nuovo cervello quasi. Ecco, è un'idea anche un po' visionaria del mondo e della realtà. Non so, a me in alcune scene mi ha ricordato dei quadri di Chagall. Tra l'altro nel romanzo ci sono dei disegni che poi sarebbero questi del quadernetto. Sì, in effetti anche quando qualcuno ha parlato dei miei lavori di artista, di pittore, è stato citato in diverse occasioni Chagall, proprio per questa... Quindi credo... non sono originale, insomma. Non originalissima, ecco. Però ecco, sì, questa idea di riuscire anche a guardare la realtà con quasi come se fosse una surrealtà, cioè per esempio personaggi che volano, ho trasferito questa mia visionarietà che di solito ho nei quadri, nelle sculture, nella narrativa, in questa storia. Non abbiamo ancora detto una delle caratteristiche principali di Ennio. Lui ha una passione, una mania, quella di fotografare le persone che piangono, è affascinato dalle lacrime, e infatti il titolo Cosa ti cade dagli occhi, le lacrime appunto. Perché questa affascinazione per le lacrime? Ci ho riflettuto ultimamente pensando al romanzo e mi sono ricordato di quando proprio a New York, io ero già stato nel 2000, quindi prima dell'11 settembre, e poi ci sono tornato per quasi 2 anni nel 2003, e in quel periodo mi capitava spesso di incontrare persone che piangevano sia in metropolitana, ma soprattutto mi aveva colpito andando a visitare Ground Zero, per esempio, dove molte persone si abbracciavano piangendo di fronte alle fotografie dei caduti, e mi è rimasta questa ossessione. Comunque ho iniziato a scrivere anche dei brani che non erano ancora romanzo, però delle riflessioni sulle persone che piangevano e che per esempio in metropolitana erano completamente prive di pudore, come se intorno non ci fosse quella calca di gente che invece le stava circondando. È come se improvvisamente scomparisse questo senso del pudore e non avevano più vergogna di mostrare la propria fragilità, il proprio dolore. Una delle cose che colpisce questo romanzo è sicuramente la copertina. C'è un, diciamo, un pupazzetto così di plastica, lo immaginiamo, con due enormi lacrime, una a destra e una a sinistra, che diventano un po' delle bolle all'interno delle quali nuotano dei pesci. Questa è una tua opera? Sì, questa è proprio una scultura reale. E l'immagine in copertina è la fotografia della scultura. Poi in realtà non è visibile ciò che sta sotto la scultura, ovvero un grande piedistallo nel quale io ho nascosto dei filtri che servono per ossigenare poi queste due gocce e per il ricambio del, non solo dell'ossigeno ma anche dell'acqua, che ho fatto costruire da consultandomi con degli acquaristi specializzati. È stata abbastanza complessa la costruzione della scultura. Quindi i pesci sono veri? I pesci sono veri, sì. E questo era Gabriele Picco, autore di Cosa ti cade dagli occhi, pubblicato da Mondadori. Da una grande casa editrice veniamo ad una piccola, tra l'altro nata da poco, si chiama 66 and the Second e ha una particolarità, come ci spiega una delle due fondatrici, Isabella Ferretti. Abbiamo deciso di pubblicare libri che appartengono, se vogliamo, a due generi molto precisi. Abbiamo due collane, la prima è la collana Attese, che accoglie romanzi di letteratura sportiva. Il romanzo sportivo, nella nostra ottica, nel nostro modo di sentire, non è riservato al tifoso, ma anzi è un modo per far scoprire anche a chi non è sportivo, né per tifo né perché lo pratica attivamente, che cosa c'è dietro allo sport. Dall'altra parte, con la collana invece Bazar, abbiamo inteso dare respiro, ecco, a quegli autori, a quelle storie di integrazione che sono così contemporanee, no? Oggi come oggi, quindi quegli scrittori di prima, di seconda, di terza generazione che hanno radici in un altro posto, finiscono per vivere in un altro, scelgono una lingua di adozione che non è la loro e con ciò facendo contaminano fortemente la nozione tradizionale che abbiamo di letteratura e di scrittura. I romanzi sportivi, si diceva, non sono rivolti ai tifosi, quindi ad un pubblico più generale? Sì, Tommaso Cenci ed io, che siamo i fondatori della casa editrice, abbiamo vissuto all'estero, sia in Inghilterra che soprattutto negli Stati Uniti. Proprio negli Stati Uniti abbiamo avuto la possibilità di respirare un'atmosfera attorno al mondo sportivo molto diversa da quella che conoscevamo in Italia. Abbiamo visto che lo sport è portatore di valori molto più ampi, molto più importanti, molto più profondi di quelli che potevamo aver imparato nel nostro paese e che sono valori senza età da un lato e per tutte le età dall'altro. Quindi se lei va a vedere una partita di baseball, per esempio, negli Stati Uniti è un'esperienza per l'intera famiglia. Perché questo nome, 66 and the Second? C'è una ragione affettiva, perché noi abbiamo, Tommaso ed io, abbiamo vissuto a New York, come dicevamo prima, ed è lì che abbiamo avuto per la prima volta l'idea di creare questa casa editrice e vivevamo proprio all'incrocio tra la 66esima strada e la Seconda Avenue e gli americani contraggono la dizione e dicono appunto 66 and Second, che sta proprio per 66esima strada e Seconda Avenue. E questa era Isabella Ferretti, fondatrice della casa editrice 66 and Second. Infine, per il consiglio d'autore, la parola a Paolo Roversi, scrittore di noir e creatore di Milano Nera, un magazine dedicato al giallo che si trova sia in libreria che sul web. Il potere del cane di Don Winslow è assolutamente un libro straordinario, un libro di 700 pagine che tu lo leggi come bere dell'acqua, perché ti va giù e non... E oltre a raccontarti una storia, ti insegna qual è la storia del narcotraffico in Sud America, senza essere mai noioso, ma essendo avvincente, quindi è assolutamente da leggere. L'amore del bandito di Massimo Carlotto, perché è finalmente il ritorno dell'alligatore, di questo suo personaggio dell'alligatore dopo tanti anni, ed è un libro anche questo che si legge proprio in un attimo, che ti tiene attaccato alla pagina e che insomma è uno degli autori in Italia più bravi che ci siano. Come sempre vi ricordo che se volete scriverci l'indirizzo è ilcacciatoredilibri@radio24.it. Una buona serata da Alessandra Tedesco.